quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno del Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti, ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri come i falsi profeti. Il Signore oggi, in questo Vangelo di San Luca, contrappone quelli che sono beati, ossia felici, e quelli che sono non felici, cioè poveri loro. E che cosa dice il Signore? Beati voi poveri. Immaginiamoci la scena. Gesù dice: felici voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Felici voi che ora avete fame, perché sarete saziati. E poi poveri voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Ecco, ci sembra un po' strana questa affermazione di Gesù. Gesù che dice: felici voi poveri. E facciamo qualche esempio concreto, pratico, che possiamo trovare nella nostra vita di ogni giorno. E sto dicendo a te, disoccupato, felice te che sei disoccupato, perché tu hai il regno di Dio. E dice: ma com'è possibile? Felice tu che ora hai fame, cioè felice tu che ora sei nel lutto, perché sarai in compagnia. Felice tu che ora sperimenti un fallimento, una delusione. E felice tu quando ora tutti dicono male di te, ce l'hanno con te. E povero te che ora ti stai accontentando di quello che il Signore, la vita ti sta dando, però in maniera molto superficiale. Ecco, queste contrapposizioni ci sembrano un po' strane, ma perché dice questo? Guardiamo anche i verbi sono: beati voi che ora avete fame perché sarete saziati, però sei felice già adesso, nonostante sei disoccupato, puoi essere già felice adesso. Perché? Dove sta questa felicità? Ma io penso che questa gioia la puoi avere tu che sei disoccupato perché sei con il Signore. E stando con il Signore, puoi sicuramente offrire al Signore la tua disoccupazione, ma non rimanere disoccupato per sempre, ma sperimentando questa disoccupazione puoi essere solidale con chi è disoccupato in questo momento, ma anche puoi essere molto creativo nel cercare, il Signore ti ha dato un'intelligenza, quindi puoi cercare di vedere come risolvere questa tua disoccupazione. Cercare di vedere quali sono i bisogni, ti apre ai bisogni degli altri, perché devi cercare di vedere come uscire da questa situazione, quali sono le richieste della gente e come rispondere a queste richieste. Io vedo che tante volte i disoccupati non cercano nemmeno più lavoro, si scoraggiano e basta. Invece, se viviamo la disoccupazione nel Signore, vuol dire che non ci scoraggiamo, ma ci diamo da fare per escogitare modi nuovi per poter intervenire e poter trovare anche il lavoro. E questo con tutte le altre beatitudini che possiamo avere nella nostra mente. E quindi cerchiamo oggi concretamente nella preghiera di chiedere al Signore di illuminarci, di darci la forza, di sceglierci anche i nostri pensieri, perché sapete, la gioia può essere trovata se ci sappiamo scegliere i pensieri giusti. E quindi chiediamo al Signore la forza, il coraggio di cercare veramente i pensieri che positivi, che possano aiutarci a non rimanere nella situazione in cui siamo, ma a intervenire per portare frutto per noi e per gli altri. Buona giornata.